Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Questa puntata di Ondivago affronta una tematica che sarà una delle novità della serie 2012 della nostra trasmissione. Ondivago ospiterà una produzione musicale indipendente e vicina in alcuni casi al mondo dell'arte contemporanea. Una produzione musicale casalinga, come molte ormai, e per la sua libertà dai meccanismi del consumo ricca di suggestioni. In questo numero la musica di Andreina Polo, artista, già ospite di Ondivago. Lasciamo che sia lei a presentare il suo lavoro. Un dritto e un rovescio è un lavoro unico, pur rappresentando un'evoluzione dei percorsi che caratterizzano la mia ricerca. Infatti ho lavorato con parecchi progetti al lato catastrofico degli eventi. Mi interessava evidenziare in contemporanea il lato oscuro dei fatti e della stessa produzione artistica. E mentre scrivevo i progetti, facevo riflessioni, sono nati alcuni testi che si sono prestati a diventare delle canzoni. Come per molti lavori, io allestisco nel mio studio il set o il laboratorio e in questo caso ne ho fatto una sala registrazione. E lavoro a prima vista, one go. Uso la voce come traccia principale in quanto è lo strumento che uso maggiormente e poi sperimento con aggiunte di altri strumenti musicali, alcuni mai usati prima. Improvviso e mescolo le tracce in modo intuitivo, lascio delle sfasature di tono, delle ripetizioni, cioè perseguo una concentrazione attiva come quando ho eseguito grandi quadri definiti neoespressionisti o vicini alla transavanguardia. E il lavoro finale poi appunto consiste nell'assemblare le tracce, e quindi con l'uso della tecnica. Avevo appunto pensato a un lavoro a maglia sonoro per districare la matassa di un percorso musicale tutto ingarbugliato. Le mie storie personali si mescolano con quello che succede intorno, rifletto, parlo di ciò che accade, improvviso e sovrappongo i pezzi musicali cercando appunto delle associazioni intuitive. Così anche nel video che accompagna le immagini, le copertine e la scatola sonora, raffiguro il percorso fatto, cioè un lavoro spontaneo con strumenti musicali, un fare maglia con una matassa di foto ritagliate mie, dei giri in auto tra la casa e la città, un pensare in auto, un girare per necessità e poi assemblo il tutto con un'immediatezza che soddisfa, spero, logiche e intuizioni. E quindi ogni numero, sono 12 CD, ogni numero cambia per atmosfere, per uso degli strumenti. E quindi l'ho chiamato appunto un dritto un rovescio, un lavoro a maglia sonoro, un patchwork al silicio, un reading ritmico. Quindi foto, musica, testi, video sono completamente originali. Ci sono 10 copie per numero. Il lavoro è stato terminato nel 2006 e presentato nel 2008 in galleria. Il numero 1 riprende alcune colonne sonore create per le installazioni fotografiche. Il numero 2 viene pensato e costruito dando un nome tecnico ai lavori a maglia, quindi maglia cotton, maglia casual, eccetera. Il numero 3 contiene una riflessione musicale sui principi del Feng Shui. Il numero 4 contiene un testo cantato rovescio con improvvisazione al pianoforte. Il numero 5 ha un testo dritto e la musica rovesciata. Il numero 6 è una maglia treccia sonora. Il numero 6A è un'improvvisazione sollecitata dall'evento tsunami. Il numero 7 è un montricò che si basa su improvvisazioni musicali diverse su uno stesso testo. Il numero 8, l'8 è un numero che rimanda all'infinito, il contenuto dei brani è una traduzione musicale di serie numeriche definite patologiche, tipo la serie di Fibonacci, la polvere di Cantor, la sequenza degli antenati. Il numero 9 introduce variazioni con l'uso di un tabla machine. Il numero 9 ricorre nella progettazione architettonica della città di Jaipur e quindi io qui ho fatto delle allusioni orientali. Il numero 9A contiene delle canzoni di linguaggi inventati e il numero 10, il dodicesimo, è la continuazione del precedente. Seguono alcuni esempi di pezzi musicali presi dal CD numero 1 e numero 2. Andreina Polo ci presenta i seguenti brani: Rolling Song, Soul Raga, Maglia Cotton e Wave numero 2. Rolling Song, Rolling Soul Raga, Soul Maglia Cotton e Wave numero 2. Rosa di pietosa, diffidente colpo, sabatanaio. Sei stupita, attonita, guardi la città, ma ne conosci solo i viali di notte. Di giorno dormi, volevi farla finita con la povertà. Non starò a contare te pure, ma ora sei figa con la terra, non vuoi di proprietà. Sali giù, vieni, amati banalità. O si va fondo, stare zitti e fare, non durerà. Ma ferite fanno male, ma ferite fanno male. Se altri rubano violenta, non si dava la vita da scuotere. La mia compagna di camera si trucca e si compera un nuovo paio di slip. Rosa, i bambini muoiono sui telati sbagliati. Pietre, cerca cibo mentre scoppia bambine. Rosa, non puoi abbracciarli. Rosa, hai da dividere che l'indifferenza. Cibo, rosa, non resti l'arma di chi passerà e tutto rimarrà buono. Rosa dignitosa, diffidente colpo, sabatanaio. Sei stupita, attonita, ma guardi la città, ma non conosci solo i viali di notte. Diffidente colpo, sabatanaio. Ad Ondivago la musica di Andreina Polo. ondivago.com. L'anima spalancata, la grata di pollo spio, carne aperta, illudendo ricucci la gamma senta, appende il gancio, corpo calpestato, l'occhi impudenti, sezionato a brandelli, riconosciuto vivendo, striato ad unghie e su dita, ancor più intime. Odo voce assorda una volta, quando desimo lamento scaturiva tra coltre e coltre, forando i timpani, scandisce il battito di cuore, disordinato, tuttora vivo, e riconosco stesso. basa tachicardia, d'anima spalancata la mia. Sollevò la sua gonna con un colpo di mano, c'è un papavero nero con dentro un melograno. Ogni seme un profumo doppio bruciato puro, spiro forte e sicuro che non si perda lontano. Infilo la mia canna d'argento nel matè. Si schiude quel papavero su un cielo che non c'è. Colmo di strati e nubi, di stagni e di stazioni, di dove partono arabi con mille notti e suoni. Galassie di muggiti, nitriti di cammelli, sulle dune traforate di spilli. Mi chino sul sagrato, divelto spalancato, non ci capisco nulla, ma succhio forse nato. Quel che viene da sé non chiede mai perché, quel che viene da sé non chiede mai perché. Oh, Abbiamo ascoltato ad Ondivago alcuni brani firmati da Andreina Polo. Grazie per l'ascolto e a presto sulle nostre onde. Ondi ondi va ondivago.com